portare la distanza e sedarmi. Non si può lasciar morire un uomo distanti, come si può stringere una donna a vendersi, come fanno governi a restare indifferenti. Continua. Andiamo a morire.